Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Oggi comincerei da tre forse delle tante mail arrivate a proposito di Real Milan. In sintesi, scrive Maurizio Galli: ho visto una partita con molti errori ma emotivamente fantastica. Il Milan ha dimostrato carattere e classe, in quanto a Cacao la certezza che avrebbe voluto restare al Milan e l'abbiano ceduto per il bilancio. Si vede che il ragazzo è triste, che l'amicizia e l'ambiente familiare di Milanello gli mancano molto. Secondo me tornerebbe subito. Matteo Cavallucci scrive da Pescara: non pensa che quello di ieri sera sia stato al lordo del blasone calcistico di entrambe, pur riconoscendo i grandi meriti del Milan, uno degli spettacoli calcistici più imbarazzanti degli ultimi 30 anni, e dico 30 perché ne ho 36, il mio primo ricordo calcistico è il gol lampo di La Combi in Argentina. Giovanni Paupini scrive: vinceremo di goleada, voglio almeno 3 gol di scarto, aveva detto alle vigilia Pellegrini. Le 3 pappine le ha prese, non ho mai capito l'utilità di tali spacconerie. Forse abbiamo da imparare molto da altre culture calcistiche, ma non nelle dichiarazioni pre-partita. Sono 3 delle tante possibili chiavi di lettura per quanto è accaduto ieri sera al Bernabeu. Bentornato a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, mi tornano in mente le parole di Maradona da girare a Pellegrini dopo quella incauta e improvvida dichiarazione. La prima parte soltanto, cioè con perdon de las damas, o andiamo anche andiamo oltre? Maradona è appena arrivato un'agenzia in cui, a proposito di quella frase a luce rossa, sostiene di aver chiesto il giudizio alla Tota, cioè a sua madre. Sua madre gli ha detto: tutto ok Diego, e allora lui dice: non mi sembra una roba per cui mi debbano squalificare. Beh, di fronte alla Tota credo che ci immortale. Siamo tutti in piedi. Immortale. Dunque, subito una notizia Gigi, è saltata la panchina dell'Atletico Madrid, prenderà Mikael Laudrup, quindi Abel Resino ha finito ieri sera a Stamford Bridge. Di far danni. Beh, no. Sì, su. Per come ha cominciato l'Atletico Madrid la stagione, direi che ci siamo. Senti, poi arriviamo ai particolari, ai dettagli. Farei prima uno sguardo insieme su queste due serate di Coppa. Intanto cominciamo dalle italiane. 10 punti su 12 è un bottino che, secondo me, alla vigilia ci poteva anche stare, è arrivato, anzi ci doveva stare, è arrivato con modalità diverse, perché rispetto appunto alle previsioni ci sono probabilmente almeno 2 punti in più del Milan e almeno 2 punti meno dell'Inter. Guarda, onestamente in base alle previsioni ce ne sono 3 più del Milan, 2 in meno dell'Inter, e i 6 punti di Juventus e Fiorentina erano abbastanza certi. In banca. Io sento molte trombe squillare per la vittoria della Fiorentina contro il Debreceni. Onestamente la dimensionerei in maniera diversa, nel senso che la Fiorentina è largamente in corsa per passare il turno, però io credo che addirittura più che la vittoria contro il Debreceni è stata più importante la vittoria del Lione a Liverpool, però questo vuol dire davvero andare a spaccare il cappello in 3. È stata una doppia serata molto positiva per le italiane, anche se a un certo punto, tra l'altro alla fine del primo tempo ieri, con la Juventus che non vinceva e il Milan che perdeva, rischiavamo di avere 3 squadre tra il terzo e il quarto posto nei gironi, e la situazione stava diventando davvero complicata. Poi per fortuna è cambiato tutto, ha segnato Chiellini, hanno segnato Pirlo e Pato, e quindi le cose sono messe a posto. Direi che l'Italia fa bottino pieno, per una volta fa più punti rispetto alle inglesi e anche e molti di più rispetto alle spagnole, che sono le vere sconfitte di questo turno, perché a memoria mia pensare che contemporaneamente in un turno perdano l'Atletico Madrid e va bene, ma Barcellona e Real Madrid insieme, insomma, questo è un evento certamente importante. Per quanto riguarda le inglesi scontano la sconfitta del Liverpool, perché poi di fatto il Chelsea, l'Arsenal che ha pareggiato e il Manchester United, direi che Chelsea e Manchester United sono di fatto già passate. Certo. Un altro dato statistico molto interessante per il mio: si è un po' riequilibrato con le partite di ieri sera il rapporto, ma certamente non è arrivato a proporzioni normali. Parlo di fattore campo. Mi pare che con i risultati di ieri le 16 partite siano finite così: 5 vittorie in casa, 3 pareggi e 8 vittorie in trasferta. E quindi quello che ieri ci raccontava Ottavio Bianchi, e cioè che diventa sempre più importante in Coppa saper giocare fuori casa, saper osare fuori casa per via del gol che conta doppio, e insieme una certa, diciamo, mediocrità di questo momento calcistico assoluto porta a giocare con maggior facilità fuori casa che non in casa, dove devi essere tu a menare le danze. Mettendo insieme queste due cose, mi pare che il riscontro numerico ci sia. Sì, sì, è un dato che viene confortato, cioè è una tesi quella di Ottavio Bianchi che viene confortata anche dai numeri, perché poi certamente la giornata di martedì è stata completamente anomala. Non è facile vedere Liverpool che perde in casa, non è facile vedere i Rangers battuti in quel modo dall'Urziceni, e poi ci sono state altre vittorie in trasferta. Direi che sì, complessivamente è molto più facile giocare in trasferta, questo lo dimostra anche il fatto che il Milan ha vinto due partite in trasferta e ne ha persa una in casa, lo dimostra anche il fatto che l'Inter probabilmente gioca molto meglio in trasferta rispetto a quando gioca in casa. Sono poche le squadre che vogliono imporre il ritmo, imporre il gioco, tra queste il Real e il Barça, che hanno nel loro DNA la voglia, la capacità e anche l'obbligo a questo punto di imporre il gioco. Hanno perso con Rubin Kazan e con il Milan. Credo che da un punto di vista statistico questo turno sia stato un turno comunque anomalo, perché soprattutto la giornata di martedì è, credo, irripetibile, però è una fase nella quale effettivamente giocare in trasferta aiuta. Devo anche dire aiuta le squadre che ci credono e ci provano, nel senso che l'atteggiamento che ha avuto il Milan, non tanto per quello che si è visto soprattutto nel primo tempo, ma per come Leonardo li ha messi in campo, cioè comunque schierando giocatori dalla vocazione offensiva in uno stadio dove tutti, cioè manca che giochino in attacco anche gli spettatori, ma insomma il Real Madrid è pensato, è fatto solo per attaccare, mi sembra una buona dimostrazione, e anche dà la misura del fatto che le italiane, se vogliono tornare a vincere in Europa, devono tornare con lo spirito di fine anni 80, primi anni 90, nei quali giocare in casa, giocare in trasferta faceva lo stesso, le squadre tentavano di imporre il loro gioco. Il Milan non ha tentato di imporre il proprio gioco a Real Madrid, ma certamente non ha dato, nella lettura delle formazioni dei primi 11, a Real Madrid la sensazione di poter giocare una partita tutta rovesciata in attacco con un atteggiamento palesemente difensivista. Giustamente, perché Leonardo ha studiato bene e ha indovinato in pieno lo schieramento, ha studiato bene le caratteristiche del Real, che sono per l'appunto quelle, e cioè stellare in attacco, soprattutto quando ha tutte le sue figurine, ieri sera gli mancava oggettivamente la principale, ma molto molto vulnerabile dietro, quindi tanto valeva schierare un Milan che fosse in grado di costruire le sue occasioni, di non rintanarsi troppo dietro dove prima o poi avrebbe subito, e invece di giocare a segnare un gol in più, non a subirne uno in meno. Con tutto il fango che avete tirato sul Milan sino ad oggi, adesso cosa dice? Domanda Max da Roma. Bah, insomma, fango non mi risulta. La sintesi estrema di ieri sera dal mio punto di vista è che contro una rappresentativa di figurine, una squadra di vecchie glorie vincerà sempre o quasi sempre, perché comunque le vecchie glorie hanno il talento che magari si può riscoprire soltanto una volta ogni tanto, ma soprattutto l'orgoglio, e se quell'orgoglio viene solleticato al massimo finisce giustamente come è finita ieri sera, nonostante un handicap di partenza, quello di Dida, spaventoso. Sono molti gli ascoltatori che chiedono di intervenire sulla doppia serata di Coppa, ma in particolare su quella di ieri e sul Bernabeu. Tra poco ci sarà spazio per i vostri interventi, continuate a prenotarvi. Intanto con Fabio Tavelli affronterei ancora tre argomenti di massima. Uno è che cos'altro, oltre a quello che già hai segnalato nella tua sintesi iniziale, e cioè le inglesi, e cioè il flop delle spagnole, assolutamente imprevedibile, soprattutto quello del Barcellona, che cos'altro c'è di curioso tra le pieghe di queste 16 partite? Ma il fatto che si sia segnato davvero tanto, perché si sono segnati 31 gol nella serata di martedì, 18 in quella di ieri, comunque è veramente tanto. Delle vittorie esterne abbiamo detto, sinceramente situazioni compromesse ancora non ce ne sono, nel senso che la formula che prevede poi di rincontrarsi fra 15 giorni fa sì che probabilmente il 4 e 5 di novembre avremo un quadro molto chiaro. Per alcuni minuti il Siviglia ha rischiato di diventare la prima squadra della storia nei gironi della fase gironi di Champions League a passare dopo tre giornate. Avessero resistito sul pareggio Rangers e Urziceni, il Siviglia sarebbe passato al primo posto. Direi che le squadre che hanno 9 punti a questo punto sono abbastanza tranquille, e curiosamente il punteggio, il girone dell'Inter è quello dove la prima ha meno punti perché sono 4, e quindi è diciamo il girone più equilibrato. e probabilmente è l'unico nel quale, in linea puramente teorica anche qui, possono passare tutte e quattro, cioè la terza e la quarta potrebbero diventare prima e seconda, certo. Cosa che non si riscontra invece negli altri, dove a parte il girone del Milan, dove non c'è una squadra a 9 punti, ma ce ne sono due a 6 e sono il Real Madrid e il Milan, diciamo che in tutti gli altri gironi almeno una di fatto verrà promossa matematicamente nel prossimo turno. Prossimo turno che si giocherà tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre ad avversari invertiti, questo è un classico di questa formula, cioè la terza e la quarta partita si giocano tra le stesse squadre, ovviamente scambiandosi i campi, e quindi Real Madrid verrà a Milano, l'Inter andrà a giocare sul campo della Dinamo Kiev, la Fiorentina riceverà gli ungheresi. E direi soprattutto la Juventus, non proprio brillantissima di ieri sera, se ancora una volta in una partita in casa contro una squadra non di primo livello è stato decisivo Buffon, e soprattutto la Juventus andrà a giocare in casa del Maccabi. Alla luce di quello che si è visto ieri sera, a parer tuo, c'è qualche rischio in una trasferta di quel genere oppure vale il discorso che poi fuori casa queste partite le giochi con un altro spirito? Ma ambientalmente non sarà facile, perché comunque la partita col Maccabi Haifa è un'incognita. Il Maccabi con 0 punti è di fatto fuori, ha solo una tenue possibilità di entrare in Europa League, ma solo se dovesse vincere contro la Juventus. Io credo che sarà forse più facile in trasferta, anche se va detto che la Juventus ieri sera ha cambiato modulo, ha messo insieme Giovinco, Camoranesi e Diego dietro Trezeguet. Non è facile rinunciare a Iaquinta in questo periodo, ad Amaury magari si può anche rinunciare in alcune situazioni. Il fatto che la Juventus ancora non abbia avuto praticamente mai Del Piero fa sì che Ferrara debba continuamente rimescolare le carte. Io credo che da un lato chi ha un grande portiere, sono talmente poche le squadre che hanno un grande portiere e non sono più di 5 secondo me in questa fase di Champions League, fa bene a tenersi allo stretto, e questo vale come un gol di un attaccante, perché basta vedere come deve disimpegnarsi il Milan con Dida in porta e rispetto al Milan la Juventus quello che può avere da Gigi Buffon, quindi lunga vita a Gigi Buffon sempre e comunque da questo punto di vista. Sì. Io credo onestamente che la Juventus non rischi tantissimo contro il Maccabi nella gara di ritorno, però poi la Juventus avrà due partite veramente toste contro il Bordeaux e il Bayern di Monaco. Bayern di Monaco che oggi annuncia di aver perso di fatto per una ventina di giorni Franck Ribéry per un problema al ginocchio, e questo è un problema serio, perché il Bayern di Monaco ieri ha perso una partita assurda, ha finito in 9, ha preso a 2 rigori sbagliati, insomma, tutta una serie di cose che portano a pensare che il Bayern di Monaco sia in una fase abbastanza confusa. Ma credo che se la Juventus dovesse vincere contro il Maccabi in trasferta chiuderebbe il discorso qualificazione. Avevo sotto il naso questa agenzia di Ribéry, che salta ovviamente anche il doppio confronto con l'Irlanda, e questa è una pessima notizia per i francesi e per converso è una buona notizia per il vecchio Trapattoni. Chiede un ascoltatore se ti risulta che possa esserci al ritorno tra 2 settimane a Milano, possa esserci Cristiano Ronaldo. No, a me non risulta, anzi mi risulta che il portoghese non dovrebbe farcela recuperare. È anche vero che teoricamente quella è una data molto vicina alla possibilità di vederlo in campo, quindi non mi sento di escluderlo al 100%. Credo onestamente che non lo vedremo a San Siro, però in questo posso anche sbagliarmi, perché sai, sulle condizioni dei giocatori di calcio bisogna sempre essere molto molto cauti. Io sinceramente ti ripeto, credo di no, ma non lo escludo. Sto selezionando molti vostri messaggi, di quelli che stanno arrivando in tempo reale, perché sono interessanti, sono variegati come sempre, ma sono oggi particolarmente interessanti. Fabio, chiuderei con una proiezione al campionato, perché qua la catena di montaggio prevede che oggi sia giovedì, che stasera si giochi, lo ricordo, l'Europa League, quindi alle 19 Lazio-Villareale, alle 21.05 in contemporanea Lille-Genoa da una parte, Fulham-Roma dall'altra. Dopodiché, per i viziosi, domani sera mi pare che Sky preveda già l'anticipo del campionato tedesco, e tra l'altro col Bayer Leverkusen mi sembra, quindi di discreto cartello. E poi magari se ci riassumi rapidamente i clou del sabato e della domenica, così almeno abbiamo finito il panorama internazionale della settimana. Ma direi di andare soprattutto in Premier League, perché c'è domenica alle 14 ad Anfield Liverpool-Manchester United. Mi sembra già una partita decisiva per Rafa Benitez. Il Liverpool in questo momento è indietro, è a 7 punti dal Manchester United. Credo che abbia, anzi sono certo che abbia un solo risultato a disposizione, che è la vittoria. Ovviamente il Chelsea molto attento a questa partita. Il Chelsea gioca contro il Blackburn. Blackburn sta facendo il classico campionato di centro classifica. Segnalo anche il derby di Bowling Ground tra il West Ham e l'Arsenal, insomma sperando che Gianfranco Zola riesca a far risultato, perché sinceramente la sua situazione è davvero molto molto complicata. 5 punti, è a 2 punti dalla salvezza, è anche vero che però è anche a 2 punti dall'ultimissimo posto, quindi insomma è un momento davvero complicato per lui, che ha tanti infortunati e ha certamente una fase della stagione molto molto complicata. Per quanto riguarda la Spagna, il Barcellona gioca in casa contro il Saragozza, il Real Madrid gioca a Gijón contro lo Sporting. Starei attento sinceramente, fossi nel Real Madrid e fossi in Pellegrini, perché non dovesse andare bene contro lo Sporting di Gijón, che comunque qualcosina di buono l'ha fatto vedere in queste prime giornate, ecco che potrebbero già suonare delle campane strane per Pellegrini. Insomma, l'espressione di Florentino Perez, al di là dei convenevoli e dell'amicizia certamente vera nei confronti di Adriano Galliani e anche del bon ton istituzionale, non mi sembrava quella di uno che si era particolarmente divertito. E siccome lui l'ha già vissuta questa situazione anni fa, con la prima era dei Galacticos, che poi non hanno vinto granché, insomma, se Pellegrini può vincere la partita meglio che lo faccia, per lui ovviamente. Anche Casillas permettendo. Grazie. Sì. Grazie Fabio. A voi, buona giornata. Hai fatto gli straordinari questa settimana, come sempre nelle settimane di Coppa. Allora, qualche messaggio, vi dicevo, buon pomeriggio. Mi pare evidente che le imprese del Milan, scrive Alberto, non possono mai prescindere da un grande Seedorf. Sottoscrivo. Non le pare che questa vittoria del Milan abbia fatto troppo rumore? Domanda Pierpaolo. Che Reale è stato quello di ieri sera? Beh, ve l'ho detto, una formazione di figurine, un assemblaggio frettoloso di figurine, ma non certo per colpa di Pellegrini, per colpa semmai della megalomania del suo presidente. E, dunque, ultimo gol di Pato, 4 giocatori Real che guardano soltanto il pallone, una difesa da promozione, beh forse da promozione, sì, anzi in promozione si trovano difese più toste a parer mio, e poi altre ancora che poi leggerò più avanti. Massimo dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Sì. Io, se mi permette, vorrei parlare argomento Juventus. Sì. Sono d'accordo con lei che la partita di ieri sera non è stata brillantissima, però volevo fare un'azione, no? Pare che da un po' di partite, forse anche già dall'anno scorso, indipendentemente dall'allenatore, la Juventus soffra un po' di paura di vincere. Negli ultimi minuti c'è sempre questa possibilità da parte degli avversari di rischiare appunto di fare gol. No. E poi, come ultima cosa, Felipe Melo, questa grandissima incognita, io sono tifoso juventino, per cui vedo un po' Felipe Melo come un calciatore, diciamo, che in questo momento sta mettendo in difficoltà la Juventus, di aiutarla. E mi auguro che questi suoi problemi, diciamo, di ambientamento, ma soprattutto di gioco, sono legati a quell'infortunio che poi ieri sera è stato amplificato da quella brutta entrata del giocatore del Maccabi, appunto per quanto riguarda la caviglia. La sua risposta, se mi permette, la ascolto dalla radio. La ringrazio e buona giornata. Grazie a lei Massimo. Ma io Felipe Melo credo che sia un giocatore di grande prospettiva, invece l'ho già detto e non credo di sbagliare. Poi prospettiva bisogna intendersi su quanto ci mette la prospettiva a concretizzarsi, ma io credo che possa essere così. La sindrome da ultimi minuti in effetti sta diventando una costante, soprattutto dicevano le partite in casa. Questo non è un bel segnale, certamente per la maturità. Per la maturità di una squadra. Stefania scrive: fosse stata la Juve a vincere a Madrid, adesso avreste parlato di grande impresa. Per favore, un po' di obiettività ogni tanto. Lei lo sa, Stefania, che è quella che ci manca, e quindi dovrebbe essersene fatta ormai una ragione. Io credo, invece, un altro ascoltatore scrive: perfetta la sua lettura e condivisibile la sua lettura di Real Milan, e cioè quella che dicevo, rappresentativa di figurine contro una grande squadra di vecchie di vecchie glorie. A me è sembrata, scrive Marco da Verona, una partita a chi giocava più lentamente. Io questa la condivido in pieno, tant'è vero Marco, che battuta per battuta, quando ho visto entrare questo olandese che correva, ho detto adesso De Blacker la sospende, perché secondo me in una sera così, correre così forte, indipendentemente dalle qualità, ma correre così forte, ho l'impressione che non valga. Torniamo con i vostri interventi in diretta, con qualche messaggio ancora interessante. Una mail che arriva da Napoli. Francesco da Napoli scrive: i paradossi del calcio, la squadra forse più forte di sempre, il Milan di Sacchi, a Madrid in Coppa Campioni non ha mai vinto, l'ha fatto il Milan di Leonardo, come spiegarlo? Beh, si gioca in due a pallone, Francesco. Quello era un Milan più forte, ma quello era anche un grande Real Madrid in compenso, perlomeno in casa. E quella sera, se non ricordo male, Costacurta e Baresi misero in fuorigioco una ventina abbondante di volte gli attaccanti del Real, che sempre, se non ricordo male, erano Sanchez e Butragueño, e tra tutte e due non avevano granché da invidiare a Benzema. Anzi, secondo me il Benzema che abbiamo visto ieri sera, porta anche il Kakà ieri sera, può portare le valigie a Sanchez e a Butragueño. Quindi vede che tutto è sempre relativo, ma soprattutto il calcio non lo giochi da solo, c'è anche un'altra dall'altra parte. Stefano, provincia di Imperia, buongiorno. Pronto, buongiorno. Senti, tanto complimenti per la trasmissione. Vabbè. Io sono un tifoso dell'Inter, quindi mi perdoneranno i tifosi del Milan se forse risulterò un po' sarcastico, ma non è propriamente così. Io ieri sera, già in televisione da alcuni commentatori, non da lei, ho sentito fare affermazioni tipo: è ritornato un grande Milan, non ci manca niente, possiamo vincere tutto quello che vogliamo. Ecco, secondo lei questa partita di ieri sera non può diventare per il Milan come la finale della Coppa dei Campioni di Istanbul per i prossimi 4 anni? Senta, dato che lei è interista, mi verrebbe da risponderle, è sicuro che non ha qualcosina di meglio da fare guardando in casa sua in questo momento, così a occhio, eh? Ha ragione, certamente, però volevo dire adesso, a parte il sarcasmo, cioè io sentivo ieri sera già i giocatori, presidente Galliani e roba del genere, che sembrava quasi che avessero già vinto anche questa Coppa dei Campioni, hanno vinto a Madrid in un momento molto difficile, e tra l'altro, a differenza che con la Roma, magari hanno vinto con pieno merito e senza discussioni, senza discussioni arbitrali, intendo, di gol validi ne ha segnati 4. Poi è vero che hanno avuto un rigore scontato all'inizio, quello di Zambrotta, ma io credo che se non si riconosce a una squadra, ai suoi interpreti, ai suoi giocatori, al suo allenatore, ai suoi dirigenti, il diritto di festeggiare come si deve una vittoria sul campo Real Madrid, non lo so, allora abbia pazienza. Io non so come funziona Imperia, ma credo che in generale funzioni come dico io, cioè se vinci una volta al Bernabeu, almeno tu giocatore che hai fatto l'impresa, e almeno tu dirigente che l'hai mandata giù tante negli ultimi tempi, e tu in particolare allenatore, credo che il diritto di festeggiare e magari di dire una parola in più sia inalienabile, credo, no? La parola in più magari devi stare attento a non dirla prima, come ha fatto Pellegrini, ma dopo mi pare che ce ne sia diritto. Fermo restando che io ho sentito un'intervista a Leonardo a caldo, credo proprio dai microfoni Rai, era ancora in campo, assolutamente perfetta di concetti e di espressione. Leonardo parla un italiano migliore di quello di tutti gli allenatori italiani di nascita, dal primo all'ultimo. Da Milano ha chiamato Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Due domande velocissime. Uno, come mai Real Madrid ogni anno perde con la squadra italiana? 2 anni fa con la Roma, l'anno scorso con la Juve, quest'anno con il Milan. E la seconda, vedo che in Italia, oltre che non andare allo stadio, si vede anche poco le partite, perché mi sembra che ieri sera ci sono stati 6 milioni e 100 mila telespettatori. Non sembra un po' pochino per una partita così importante? Grazie a tutti, buonasera. Buonasera a lei Paolo. Può darsi che qualcuno abbia cambiato canale dopo il primo tempo, eh? In questo caso lo capirei, perché se non c'erano serie ragioni professionali io l'avrei fatto, onestamente, forse anche prima della fine del primo tempo, quindi questa potrebbe per esempio essere una spiegazione. Il Real per la terza volta di fila perde in casa, ha ragione, dopo Roma e Juve è toccato al Milan. Non è certamente un grande Real Madrid quello di questi anni, tant'è vero che quest'estate il suo collezionista di figurine ha speso, mi pare, non so più se 200, 250 milioni di euro, comunque insomma una follia senza precedenti per provare a rifarlo più forte. naturalmente avendo poi fretta che questi giocatori giochino tra loro come se si conoscessero da anni e non da poche settimane. Non trovando la Gazzetta, ho letto il Corriere dello Sport, scrive Simone da Padova, ho trovato un 8 a Pato e un Ronaldinho, e a Ronaldinho un 4,5. Secondo lei sono voti obiettivi? Ma insomma, obiettivi è sempre... l'obiettività è sempre difficile da cosa. Io le garantisco che il sobbalzo l'ho fatto stamane quando ho visto nelle pagelle di Repubblica, quando ho visto un 7 a Ronaldinho. Secondo me siamo molto più vicini al 4,5 che al 7 per come l'ho vista io. Diciamo che mi fido di più di chi era là, e in particolare mi fido, in questi casi vado a cercare qualcuno di cui mi fido davvero, presente sul posto, e ho trovato Roberto Beccantini a Madrid. Allora, Ronaldinho 5, e scrive: inutile, gioca di tacco, di petto, di spalla, tutto lo stretto superfluo, che è una battuta splendida, perché in genere si dice appunto tutto lo stretto necessario, quindi tutto lo stretto superfluo, voto 5. Pato, voto 8, tenero e irritante per un tempo, poi chirurgico, 2 gol a Bernabeu e una vittoria che vale oro. Ma poi belle anche le altre pagelle di Seedorf, scrive: figuriamoci se il teatro non lo eccita, guardatevi l'apertura a Pato per il 3-2 e il 4-a Dida è così spiegato: con la Roma sembrava tornato un portiere, con il Reale è tornato Dida, nostalgia canaglia di Storari ed è tutto dire. Giorgio da Ferrara, buongiorno. Giorgio da Ferrara è momentaneamente tombé e lo ripeschiamo appena possibile. Marco ha chiamato le Vercelli, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Io dico, sono d'accordo, io sono milanista, ok, sono d'accordo con tutto quello che lei ha detto, però non vorrei anche dimenticare la difesa. Ieri abbiamo visto un Thiago in versione a 20 anni, sto ragazzo, in poche parole. Dopo qualche esitazione iniziale. Dopo qualche esitazione, sì, comunque Coppa dei Campioni, in uno stadio, quello di Madrid. Certo. Mamma mia, ho visto un Oddo finalmente sudare, lottare, un Zambrotta e finalmente... Zambrotta non esageriamo. Sì, beh, comunque finalmente abbiamo visto davanti, alla fine, vedere anche un Borriello. Borriello è la forza del Milan. Borriello sarà sicuramente la punta, il personaggio che manca al Milan. Lei non dice, so, lei cosa pensa? No, questa non la penso. Penso che Borriello sia un buon giocatore, interessante, ma insomma penso che quando, un po' per infortuni, un po' per altre ragioni e non tutte bellissime, quando ti passano tanti treni, non riesci mai a salire davvero con continuità su nessuno, che non sia stato quella magnifica annata a Genova, bah. Io qualche dubbietto ce l'ho sulle prospettive, poi invece non è detto. Sto sfogliando messaggi. Il Festival della Lentezza, sì, però ha ragione anche Marco, l'ultimo ascoltatore intervenuto. La difesa del Milan ha comunque giocato una buona partita. Io non sono d'accordo su Zambrotta, cioè Zambrotta mi sembra davvero un giocatore, con tutto rispetto per lui, per il suo passato, per l'impegno che ci mette, però mi sembra un giocatore in declino, certamente, non soltanto qui, anche in nazionale. Non dimentichiamo che ieri sera commette dopo pochi minuti un errore fatale, perché il Milan non stava assolutamente subendo né accusando il Reale in quel momento. Commettere un fallo da rigore così gratuito e così fuori tempo non è un bel segnale, e quello è un errore grave, sarebbe stato, se sanzionato, un errore grave quasi come quello di Dida, anzi grave come quello di Dida sul piano della sostanza, poi sul piano formale no, perché quello che ha fatto Dida ieri sera ovviamente è inarrivabile. Da Ferrara ha chiamato Giorgio. Pronto? Dica. Buongiorno, ascolti, volevo chiedere una sua opinione, lei che di sicuro ne sa più di me, su Alessandro Nesta, che a parte la partita di ieri sera l'ho visto ultimamente molto in crescita, l'ho visto incontrare molto bene, e se vogliono vendere Dida non devono farlo giocare. Grazie, ascolto per radio. Se voglio vendere Dida, voglio far giocare, non è male, no, ma tanto se lo cedono mi pare al Corinthians, mi pare che lui voglia tornare in patria e... tanto ormai, guardi, sì, appunto, ha ragione, bisogna farlo vedere, perché nel villaggio globale di oggi qualsiasi immagine circola al di là dei continenti, attraversando oceani in un tempo infinitesimale. Grazie anche per il suo intervento. Dida ha fatto una parata decisiva nel finale, scrive Giacomo. Non è che la TV inizia a reformarlo. Giacomo ha fatto una bella parata nel finale, poi sì, decisiva, nel senso che se non la fa il Real pareggia, però prodezze di Dida no. Qualche buon intervento che testimonia comunque il carattere del portiere, perché invece Casillas, avendo sbagliato sul gol di Pirlo, poi evidentemente ha accusato talmente quell'errore da sbagliare poi in maniera dilettantesca l'uscita successiva. Quindi dal punto di vista caratteriale Casillas ha fatto certamente peggio di Dida, dal mio punto di vista. Sentiamo ancora Luca, chiamato da Bergamo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Senta, io sono un tifoso della Juventus, però ieri ho preferito guardare Real Madrid-Milan un po' perché... il fascino del Bernabeu rimane anche per chi non è milanista, poi per un sano campanilismo nazionale. Comunque quando sono all'estero appoggio tutte le squadre italiane. Io non sono un grande seguitore di calcio, mi piace guardare partite particolari. La cosa che ho potuto notare ieri, a parte la partita al primo tempo un po' noioso, però poi si è ripresa, a me è piaciuta personalmente, è che sarà patetico, ma l'arbitraggio è veramente... si è rischiato a un certo punto la rissa addirittura sul gol annullato senza senso, cioè io no, senza senso no, perché in una partita correttissima e giocata da grandi signori Ronaldinho ha preso per i capelli Raul dandogli una sberla da dietro e ho l'impressione che rischi la prova televisiva il professor Ronaldinho, quindi è per questo che è scoppiata la rissa, non perché l'arbitro l'abbia favorita. L'arbitro aveva preso anche lì, aveva fatto un altro errore grave anche lì, come l'ha fatto all'inizio. De Blecker ieri sera ha certamente rivalutato senza volerlo gli arbitri italiani. Il cacà di ieri sera, scrive Max, è il cacà degli ultimi due anni al Milan. Non proprio così, Max, ma cioè ancora un po' peggio, ma insomma comincio a temere anch'io che ci sia una linea discendente incredibile data l'età e dato il talento di questo giocatore. Qualche notizia adesso. Beh, la prima è drammatica, perché ieri sera ad Almine, in provincia di Bergamo, è morto un ragazzo di 18 anni, un giocatore del Dalmina Futura. Durante un allenamento con i compagni di squadra è morto, stava correndo, a un certo punto si è fermato, è caduto a terra e a niente sono serviti i soccorsi, prima quelli improvvisati di compagni, allenatore e medico sociale, e poi del 118. I medici hanno provato a rianimarlo, ma il giocatore non ha più ripreso conoscenza. Ripeto, si chiamava era un ragazzo di 18 anni, si chiamava Damiano Capitanio e giocava nel Dalmine Futura. Gli arbitri di sabato e domenica, Inter Catania sarà diretta da Pierpaoli, il posticipo Chievo-Milan da Bergonzi, Sampdoria-Bologna affidata a Saccani, Tagliavento a Siena-Juventus, Russo-Roma-Livorno. E poi ancora Juventus-Napoli è stata considerata ad alto rischio e quindi divieto di trasferta per i tifosi del Napoli in occasione di Juve-Napoli di sabato 31 ottobre, ma anche di Fiorentina-Napoli in programma successivamente. E poi altro ancora, vediamo di alternare queste cose magari a qualche voce e ai vostri interventi. Enzo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Garanzini? Dica, sì. Senta, io sono interista da tanti anni, no? Ma quando vedo giocare Seedorf e sapendo quanto l'ha pagato l'Inter, mi viene proprio la pelle d'oca. Sono 8 anni che sta facendo le fortune del Milan, anche se ultimamente insomma non è più, no, non può più essere, né a 36, né a 33, è del 76. Comunque, io, senta signor Garanzini, io Coco è del nostro paese, lo vedo sempre, tante volte qua. Ah, Coco, è vero, perché Coco fu un cambio alla pari. Fu un cambio alla pari nel 2001, Coco Seedorf. Poi mi pare si sia saputo che in realtà c'era anche un giochino di plusvalenza tra le due società, ma direi che questa, pur essendo una cosa tutt'altro che corretta, sarebbe un attenuante. Perché se davvero invece il cambio Coco Seedorf fosse stato un cambio alla pari con una valutazione tecnica rispettiva, davvero, lo dissi allora e lo ripeto adesso, che sarebbe stato da interdizione pura e semplice. Grazie di questo Marcord, che è sempre divertente, e E io mi sono dimenticato della rubrica, sì, di Nicola Filippone. Quindi facciamo un passetto indietro e sentiamo cosa è successo in un certo anno, in questa giornata 22 ottobre, con Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 ottobre 1967. Il quinto turno di Serie A è una giornata densa di emozioni e colpi di scena. Il Torino rende omaggio alla memoria di Gigi Meroni, tragicamente scomparso solo una settimana prima, infliggendo alla Juventus un umiliante 4-0. A trascinare i granata all'impresa è il centravanti franco-argentino Nestor Combin, autore di una tripletta. Intanto a Milano l'altro derby di giornata finisce in parità e tra le polemiche. A Benitez, che porta in vantaggio l'Inter, risponde Rivera con un gol che scatena le proteste dei nerazzurri, convinti che la palla non abbia varcato la linea di porta. In serata, alla Domenica Sportiva, Carlo Sassi dimostra a Rallenti che l'arbitro D'Agostini aveva sbagliato. Nasce così la moviola televisiva. Beh, una giornata a suo modo storica due volte, no? Vista quella incredibile vittoria emotiva del Torino, che aveva sepolto il suo giocatore di maggior talento, il suo campione Meroni, quattro giorni prima con gli imponenti funerali di Torino. E poi visto che quella sera, come ben ricordato Filippone, Carlo Sassi ed Eron Vitaletti, il montatore di allora del programma della Domenica Sportiva, si inventarono per caso, no, un po' pensandoci, ma soprattutto per caso, si inventarono la moviola, mai immaginando, Carlo Sassi lo ha detto tante volte, quanti danni avrebbe fatto negli anni a venire la loro trovata, la trovata di quella sera. Tocca a Roberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Una considerazione, anche se forse non troppo originale, perché è stata già preceduta dagli ascoltatori che hanno telefonato. Io sono... Ovviamente fa piacere avere vinto, è un grande risultato, ed anche se lo merita secondo me Leonardo, perché è lui che ha dato quello spirito una volta tanto positivo, soprattutto sul pareggio, cioè vedere la squadra che attaccava. Però oggettivamente è inutile esaltarsi troppo, perché appunto si diceva anche prima, Ronaldinho è quello che è evanescente, il portiere è una tragedia, e poi abbiamo ancora in difesa appunto gente come Oddo che sì, ieri ha corso, però se la squadra non fa qualche acquisto, adesso non so se si possa fare in questo momento, temo, ma se non ci sono degli acquisti di giovani appunto da inserire, tutto sommato al di là del piacere e dell'orgoglio di ieri, non vorrei poi che si ricominciasse la solita posizione, la solita situazione, il solito tran-tran. Lei cosa ne dice? Roberto, mi riguarda molto, mi coinvolge molto di lontano. Dico che sì, ma è un tipo di messaggio abbastanza ricorrente negli interventi dei milanisti di stamane, l'ho già visto passare in precedenza, e cioè la sintesi è, ma anche la sua mi pare, non è che adesso, avendo vinto con Real, ricominciamo per l'appunto a lasciarli invecchiare di altri due anni tutti questi senza rinnovare la squadra, no, non credo, anche perché questo errore, che è un errore storico che il Milan ha commesso, insomma l'ha commesso due anni fa dopo una finale di Coppa Campioni vinta, ora con tutto il prestigio che il Bernabeu ti può dare, però in palio non c'era nessun trofeo ieri, quindi no, non credo che commetteranno questo errore, ma mai dire mai, mai sottovalutare. Paolo, provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno, anche ieri in panchina Favalli, Onievo e Rotto, non credo sia l'ora di entrare un po' sul mercato sulla difesa o appunto fare entrare ovviamente in prima squadra Albertassi, che gioca in nazionale, o tantomeno Darmian, giovani di grandi promesse, ecco. In difesa soprattutto. Insomma, Paolo, adesso non esageriamo, non mi sembra che ieri sera Milan abbia fatto cattiva figura in difesa, no? Allora, se ne parliamo in prospettiva è un conto, se parliamo di ieri sera mi sembra che abbia indovinato tutto Leonardo, sia come atteggiamento tattico soprattutto, che è stato decisivo, che come scelte, che poi sono state le scelte a determinarlo, perché dipende sempre dai giocatori. Insomma, poi si può discutere se in quella posizione di ala d'appoggio non fosse meglio, per esempio, non so, Borriello fin dall'inizio anziché il fantasma con la bandana, però mi pare che alla fine qualcosina abbia combinato anche lui, e che comunque non si possa dire, soprattutto in difesa, che il Milan non abbia non abbia fatto una partita più che decorosa, anche perché sennò comunque al Bernabeu contro qualunque Real, ma vincere non vinci. Grazie a Roberto Scatritti in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione e Giornale Radio. A tempo di sport.